Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Lidia Genchi di Nomad Entertainment, che distribuisce il film Silenzio di Teddy Lucie Modeste al cinema da giovedì 27 febbraio 2025. Ben trovata. Buongiorno, ciao Federico, buongiorno a tutti. Felice di essere ancora una volta con voi. Presentiamo questo film. Di cosa parla? Il film, dal titolo italiano, da noi scelto Silenzio, ma in realtà in francese è Pas de Vague. È la storia di Julien, che è interpretato da François Civil, quell'attore che aveva fatto recentemente I Tre Moschettieri e L'Amore Folle, usciti in Italia. E quindi è la storia di Julien, che è un giovane insegnante e viene ingiustamente accusato di molestie da una sua alunna. La situazione piano piano sfugge di mano un po' a tutti, e soprattutto perché la presidenza della scuola decide di non sostenerlo. E quindi da quel momento la sua vita ovviamente non sarà più la stessa e si troverà ad affrontare dei problemi importanti e anche con la giustizia in qualche modo. Cosa ti ha convinto di questo film? Intanto l'argomento, che è molto importante, viene trattato relativamente poco e sono situazioni difficili che si verificano in Francia come in Italia, in Europa, io direi nel mondo, ed è stato affrontato con una grande profondità e con una grande delicatezza, cosa che non era sicuramente scontata visto la difficoltà del tema. E poi quello che mi ha colpito molto anche è che il film è tratto dalla storia vera del regista stesso, che ha dovuto subire nel passato abbastanza recente queste situazioni. E la cosa che mi ha ancora più colpito è che lui ha continuato a fare il professore e ancora oggi è professore. Quindi questo film è servito anche come superamento in qualche modo di questa brutta storia. Come regista, cos'altro sappiamo di lui? Lui è al terzo film. Il primo film si chiamava Jimmy Rivière, che era stato presentato al Festival de d'Angers, e poi ha fatto un film che è uscito in Italia che si chiama Il prezzo del successo, che era stato presentato sia a San Sebastian che a Toronto. È un regista che parallelamente, come ti dicevo, fa anche la professione di insegnante. All'estero che percorso ha fatto il film tra festival e sale cinematografiche? Il film è uscito in Francia, è andato molto bene, riscuotendo un grosso successo, e ha fatto diversi festival, sempre francesi comunque. In Italia noi abbiamo pensato non tanto di darlo ai festival quanto di farlo uscire nelle sale, perché poi la cosa importante è che lo veda il pubblico. Infatti stiamo cercando di fare una distribuzione capillare nelle sale, ma poi anche parallelamente una distribuzione per le scuole superiori e per le università anche. In quante sale esce? Al momento sono una trentina, poi nella seconda settimana vediamo se si riesce a fare. Ci sono tanti altri cinema, purtroppo in questo momento come sempre ce ne sono grossi problemi di spazi, anche perché ci sono gli Oscar e quindi molti cinema aspettano di vedere chi è che vincerà per rimettere in programmazione i film degli Oscar. E comunque già nella seconda settimana avremo delle altre sale, quindi alla fine riusciremo a resistere in sala almeno un mesetto, si spera, per poi fare tutto il percorso, insomma, la filiera televisione e piattaforme. Il titolo in francese si chiama Pas de Vague, che identifica un movimento che è nato nel 2010 proprio dai professori per far fronte a queste situazioni. E Pas de Vague significa letteralmente niente scandali, non facciamo scandali, appunto per dare voce a proprio ai professori che subiscono errori giudiziari, queste violenze in qualche modo, tra virgolette. Quindi era importante che, siccome Teddy Lucie Modeste ha aderito a questo movimento francese e ne ha fatto poi il suo film tratto dalla sua storia vera. I riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo? tutti i social, TikTok, Facebook, eccetera. No, punto Mad Entertainment, che è la nostra società di distribuzione. Il film Silenzio di Teddy Lucy Modesta al cinema da giovedì 27 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Lidia Genchi di Nomad Entertainment che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie a te e grazie a tutti voi per l'ascolto. Grazie, buona giornata. Con Geraldine Ottier, regista del film Io non sono nessuno, al cinema da giovedì 6 marzo 2025, ben trovata. Ciao Federico, grazie. Che racconto hai fatto? Io ho fatto questo film, Io non sono nessuno, prodotto da Tite Productions e distribuito da Green Film, ed è la storia di Maria Silvia Scolato, insegnante di matematica, femminista, attivista LGBT, che durante una manifestazione dell'8 marzo del 1972 scese in piazza con un cartello con su scritto Liberazione omosessuale, venne fotografata e questa foto fece il giro d'Italia. A causa di questo gesto lei venne licenziata, allontanata dalla famiglia e visse come senza tetto per 40 anni. E Maria Silvia si è spenta nell'ottobre del 2018, all'età di 83 anni. Come nasce l'idea, il progetto? Nel 2018, appunto, uscirono degli articoli su Maria Silvia, con pochissimi elementi in realtà. Non so per quale motivo, ma questa storia mi ha affascinato dal primo momento. Poi lei ha vissuto 20 anni sui treni, quindi insomma ha avuto una vita veramente straordinaria. Quello che però mi ha colpito di lei, più di altre storie magari, perché comunque di donne straordinarie ce ne sono tante e sarebbe bello raccontare quella di tutte, però mi ha colpito soprattutto il suo forte senso di libertà. Cioè questo comunque scegliere una vita di strada anziché omologarsi, che sarebbe chiaramente stata la scelta più facile, di conseguenza anche il suo coraggio e poi la sua enorme dignità, perché comunque lei non ha raccontato questa storia se non gli ultimi anni della sua vita e avrebbe avuto tutto il diritto di essere magari arrabbiata con la società o comunque avrebbe anche avuto il diritto di fare la vittima, invece con estrema dignità non ha mai detto niente. Quindi diciamo che sono un po' questi gli elementi che mi hanno portato a scegliere di raccontare proprio questa storia. Come hai deciso di impostarlo il film? Il film parte con i giorni nostri, il 2018, quindi vediamo questa donna anziana, per poi ripercorrere la sua vita dagli anni 60, poi 70, si racconta molto bene gli anni 70, quello che lei ha vissuto da attivista e femminista, per poi seguirla fino agli anni 90 e tornare poi nei giorni nostri. Su quali elementi hai voluto centrare rispetto alla sua figura? Il film porta con sé una serie di tematiche che sono anche drammaticamente attuali, nel senso che si parla di molestie sul lavoro, si parla di omofobia, violenza omofoba, si parla di femminismo, delle conquiste fatte dalle femministe, come il divorzio ad esempio, si parla anche di bullismo a scuola, tratta tutta una serie di tematiche che appunto, come dicevo prima, sono molto molto attuali, nonostante la storia sia ambientata negli anni 70. Com'è stato il lavoro con attori ed attrici? È stato un lavoro molto molto bello. Abbiamo iniziato a lavorare sui singoli personaggi con tutti gli attori, anche insomma 2 o 3 mesi prima delle riprese, soprattutto per quel che riguarda la protagonista Erika Zambelli, che interpreta Maria Silvia. Quindi è stato un lavoro soprattutto di comprensione del personaggio, la psicologia del personaggio. Quindi devo dire che è stato un lavoro molto bello e anche gli attori sono stati molto contenti di fare questo tipo di lavoro. Erano tutti molto dentro alla storia, hanno vestito i panni dei personaggi molto molto bene. Come avete deciso di distribuirlo? Come dicevo, il film viene distribuito da Green Film di Salvatore Scarico e uscirà nelle principali città italiane dal 6 marzo. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Per qualsiasi informazione si può scrivere alla pagina Instagram Io non sono nessuno _film, oppure si può mandare una mail anche per le prevendite del film a ufficio stampa greenfilmsrl@gmail.com. In questi weekend troverete nelle principali piazze italiane gruppi di ragazze con dei cartelli, appunto con su delle frasi di Maria Silvia, che anche loro potranno dare informazioni. La scelta del titolo? Maria Silvia è stata un personaggio molto importante per la storia LGBT, comunque ha aggiunto un tassello molto importante alla libertà personale di tutti noi. Purtroppo però è stata un po' dimenticata, non tanto per volere nostro, ma appunto come spiegavo prima, perché lei non ha raccontato la sua storia, quindi lei è stato un personaggio importante, è stata qualcuno, quindi io non sono nessuno. Il film Io non sono nessuno al cinema da giovedì 6 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Geraldine Ottier. Alla prossima! Grazie, ciao! Con Violetta Rovetti, regista del film Il migliore dei mali, al cinema da giovedì 6 marzo 2025, ben trovata. Ciao, ciao, buonasera, grazie e grazie mille per questo invito. Cosa hai raccontato? Il migliore dei mali è un film che possiamo definire di genere sci-fi, ma con una forte componente mystery e soprattutto di coming of age, ed è ambientato nel sud Italia degli anni 90. Segue questo gruppo di ragazzini e loro, nel tentativo di ritrovare un cane scomparso, che poi è un po' il MacGuffin della storia, si imbattono in un segreto legato, diciamo, a una fabbrica misteriosa che domina la città in cui vivono, e da lì le loro vite cambiano radicalmente, faranno delle scoperte inquietanti, verranno fuori una serie di misteri e ci sarà questa sorta di lotta silenziosa, ecco, contro un sistema che sembra più grande di loro. È un film che esplora il concetto di diversità, di trasformazione, sia una trasformazione interiore che esteriore, che poi riflette simbolicamente una trasformazione interiore, e ha un po' questa estetica sporca, questa estetica industriale, anche un po' questa estetica B-movie, perché comunque si tratta di un film indipendente fatto con un budget molto piccolino, però abbiamo voluto raccontare una storia di provincia che mescolasse un po' di fantascienza, un po' di inquietudine sociale, dove il corpo stesso diventa un po' il terreno di uno scontro tra la paura e anche la scoperta di sé, perché si parla di appena teenager, appunto, che stanno affrontando il coming of age, ecco. Com'è nato tutto? È nato ben prima del film, perché è nato in un contesto fumettistico. Il migliore dei mali è un fumetto prima di un film. Io qualche anno fa ho pubblicato questo inizio di saga, perché poi dovrebbe proseguire. Sono stati pubblicati due volumi ed entrambi i volumi sono raccontati nel primo film, però diciamo che poi dovrebbe proseguire come saga. E poi è stato notato questo fumetto dal produttore Emanuele Nespega, che poi è andato via alla macchina che ha creato il film, e quindi si è trasformato in qualcosa di diverso, è passato da un formato cartaceo a un formato audiovisivo. Com'è stato il passaggio dal fumetto alla messa in scena? È stata una sfida, è stato impegnativo, perché comunque ci sono tante cose con cui bisogna confrontarsi. Nel fumetto, nella graphic novel, hai sicuramente meno persone con cui confrontarti quando vai a creare il lavoro. Io sono sceneggiatrice, quindi mi avvalevo di un disegnatore in quel caso, e poi avevamo un editor, quindi diciamo eravamo un piccolo nucleo, un piccolo team di 3 persone. Chiaramente quando vai a fare una trasposizione cinematografica, il cinema è una macchina molto più grande, una macchina diversa, per quanto possa essere un piccolo film, però comunque non sarà mai piccolo come lavorare a una graphic novel in 3. Ecco, perciò sicuramente è stata una grande sfida mettere insieme tante teste, far collimare tante questioni, riuscire a imparare ad adattare anche a un determinato budget e anche a delle determinate esigenze di tanti reparti. Insomma, ognuno ci ha messo poi del proprio e ci sono state anche delle difficoltà che abbiamo cercato di superare, sicuramente con tutte le possibilità che avevamo a disposizione. E sicuramente per me è stato estremamente formativo, soprattutto la parte proprio della trasformazione della sceneggiatura, che io ho adattato insieme ad altri 2 sceneggiatori meravigliosi, che mi hanno veramente formato in questo, perché ho potuto toccare con mano che cosa significa trasformare la carta in qualcosa di vivo, in un certo senso. Com'è stato il lavoro con i giovani attori ed attrici? Molto bello, mi ha restituito veramente tanto. Io sono abituata a lavorare con gli attori, con le attrici, perché vengo da un percorso sì di cinema, ma soprattutto di teatro. Ho fatto teatro per tanti anni, quindi so che significa essere un attore, so che significa essere dall'altra parte. Però diciamo che avevo sempre avuto a che fare con attori miei coetanei, poi adulti, ecco. Quindi è stato estremamente interessante lavorare con degli attori che ovviamente per me erano dei bambini tra i 13 e i 17 anni all'epoca in cui abbiamo girato il film, e quindi c'è stata una grande restituzione nell'esperienza. forza di confrontarsi comunque con dei ragazzi così giovani, che però veramente mi hanno sorpreso, mi hanno stupito nel grandissimo impegno, nella grandissima serietà e anche nella grandissima voglia di mettersi in gioco, perché per loro era un po' tutto un gioco in un certo senso, per alcuni non era la prima esperienza, per altri era estremamente la prima esperienza, e quindi è stato formativo per me e chi lo sa, magari forse anche un po' per loro. Sicuramente ci siamo insegnati cose a vicenda, mettiamola così. Che tipo di uscita sarà? Sarà un tipo di uscita in sala, però poi speriamo insomma che abbia una seconda vita in piattaforma. È una piccola uscita, una distribuzione che andrà in sala per il momento per una settimana, e quindi dal 6 marzo fino al 12 di marzo. Ci sono alcune sale selezionate del circuito UC Cinemas e è quasi un'uscita sperimentale, perché appunto è un piccolo film e vogliamo vedere un po' come va, e poi speriamo anche in una possibilità di una seconda vita appunto in piattaforma, ecco. Ci sono dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo? Sui miei profili YouTube, Instagram, TikTok, Violetta Rox si chiamano i miei spazi, anche se poi il mio nome è Violetta Rovetto come autrice, e poi chiaramente anche sugli spazi dell'ufficio stampa, lo scrittoio, sugli spazi della produzione Solaria e anche chiaramente sugli spazi di UC Cinemas stesso. Il film Il migliore dei mali al cinema da giovedì 6 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Violetta Rovetto. Alla prossima! Grazie, grazie mille ancora e spero di vedervi al cinema. Con Claudia Brignone, regista del documentario Tempo d'attesa al cinema da domenica 9 marzo 2025, ben trovata. Ben trovati a voi, grazie. Cos'è questo lavoro? È un film che racconta di un gruppo di donne che si incontra al Bosco di Capodimonte a Napoli sotto una magnolia con un'ostetrica. È un film che ci fa riflettere sul bisogno di stare in comunità, sul bisogno di stare insieme, e la gravidanza è il momento in cui una donna da figlia diventa madre, quindi il film è anche una riflessione sull'importanza della nascita, che in fondo è un evento che tutti abbiamo attraversato, quindi l'essere accolti al momento della nascita, il diventare madri, il diventare genitori oggi in questa società, il ruolo della donna che cambia. È l'incontro, il bisogno di guardarsi negli occhi, di stare in natura e stare insieme. Per me questo è questo lavoro che viene fuori da quasi 5 anni di incontri, di ricerca, di contatto e di relazione con le persone che ho incontrato. Com'era nata l'idea? L'idea è nata perché io stessa sono diventata madre e avevo molta paura di partorire. Avevo molta paura proprio dell'evento del parto e quindi ho cominciato a studiare, che è appunto quello che faccio quando c'è qualcosa che mi turba, e quindi mi metto un po' in ascolto di quello che ho attorno, e avevo frequentato paradossalmente 3 corsi preparto in vari posti della mia città, e poi ho incontrato questa ostetrica che si chiama Teresa De Pascale, che è un'associazione a Napoli da oltre 20 anni che si chiama Terra Prena, e questo incontro è stato un incontro speciale e ho capito che mi faceva piacere, insomma, che era importante seguirla e farne un film con lei, perché poi io ho avuto un bellissimo parto, ho sentito una forza incredibile attraverso questa esperienza e mi sono detta che tutti dovrebbero vivere un'esperienza così bella. Come hai pensato di costruirlo? Il racconto inizialmente doveva essere solo l'osservazione e il seguire in qualche modo questi cerchi, perché Teresa De Pasquale ogni settimana fa degli incontri appunto o al Bosco di Capodimonte, se è bel tempo, nella sede della sua associazione. Questi incontri sono incontri lunghi che non hanno un tema specifico, ma lei ti chiede semplicemente come stai e da lì vengono fuori esperienze, storie, temi che possono essere utili per la questione della gravidanza, quindi il momento che le donne stanno affrontando, ma in generale si parla di tutto, dalla sessualità al come ci si sente, dal lavoro che si fa, dalle difficoltà lavorative, è proprio un cerchio in cui appunto le donne, ma anche ogni tanto gli uomini, si incontrano, e quindi all'inizio pensavo di seguire soltanto questi incontri, poi però mi sono resa conto che c'erano molte parole, cioè che diventava un film di troppe parole e che tutto quello di cui si parlava sarebbe anche stato bello visualizzarlo, e quindi ho cominciato a chiedere alle donne, cosa che non ho mai fatto nei miei lavori precedenti, perché gli altri sono film esclusivamente un po' sui luoghi, dove appunto il luogo diventa anche protagonista della storia. In questo senso, in questo caso invece, forse per la vicinanza che io ho sentito con le persone, per gli intenti comuni che in qualche modo ci muovevano sia a me come regista e anche alle donne che sentivano questa mia urgenza di racconto, ho chiesto se potevo andare nelle loro case durante le visite che Teresa faceva e durante i loro travagli e i loro parti. E così si è creata questa relazione speciale, perché il momento del travaglio e del parto è un momento molto delicato, molto intimo, che pian piano nel corso di questi 4 anni sono riuscita poi a filmare, ed è stato veramente molto molto importante. Appunto, ho filmato dei travagli a casa, delle donne che decidono di fare il travaglio a casa e poi di andare in ospedale, ho filmato parti in ospedale, una clinica che sta a Napoli, un parto in macchina. Nel film ci sono delle cose un po' speciali, un po' uniche, perché questi sono dei momenti un po' unici, cioè non è che ricapitano facilmente, e soprattutto ci sono donne che anche all'ultimo momento mi hanno detto: no Claudia, adesso no, questa cosa non puoi venire, oppure sì, vieni a filmare, mi fa piacere. E io ero appunto aperta a quello che veniva, perché questo è il lavoro, no? Essere in contatto, in relazione, ma anche quando hai davanti delle persone con le loro vite, devi avere assolutamente rispetto, e io sento una grande responsabilità ogni volta che metto la camera davanti a qualcuno, e quindi aspetto anche il tempo dell'altro. Che esperienza è stata? È stata un'esperienza fortissima, molto molto arricchente, molto proprio di incontro forte, cioè ancora sono molto legata a tutte le donne, alle famiglie, perché anche appunto i padri si sono appassionati a questa storia, al fatto che io davvero avessi questa urgenza di racconto, questo bisogno di raccontare quanto la nascita può essere un'esperienza importante per la madre e per il bambino e per la famiglia che nasce in quel momento, quando questo bimbo nasce. Io penso che in tutti i momenti della nostra vita, che siano quelli di passaggio, no? E quindi quando stai cambiando ruolo in qualche modo, avere qualcuno che ti tende la mano fa la differenza. Sapere che c'è un gruppo a cui puoi riferirti può cambiare le cose, no? E invece purtroppo oggi sembra che c'è una tendenza all'isolamento, a stare soli, a dover primeggiare, a puntarsi un po' il dito contro, e questo per me è un po' un problema della società in cui viviamo. E quindi ho voluto provare a raccontare questo, a quanto sia importante mettersi insieme, perché insieme si sta meglio. Che distribuzione sarà? Sono molto contenta, perché dopo tanto tempo, il film nel 2023 è stato a Torino e ha vinto il premio speciale della giuria, e poi ha cominciato a girare per i festival italiani prevalentemente, e finalmente siamo riusciti ad avere questa distribuzione che è Zala. Sono molto felice di questa nuova avventura che il film potrà fare, e andremo un po' in giro per l'Italia con delle proiezioni in evento. Dal 9 marzo saremo a Napoli, appunto la prima proiezione a Napoli al Modernissimo alle 11 di mattina, anche questa è una cosa un po' inusuale, perché l'idea è anche che ci siano delle proiezioni dove è più facile che magari le madri possano partecipare, perché si sa che quando ci sono i bimbi piccoli la sera è più complicato lasciarli. E poi ci saranno 2 proiezioni a Roma, al Cinema Don Bosco, al Cinema Troisi, poi ci sarà Milano, Torino, Genova, insomma per fortuna c'è movimento, e sono certa che ce ne sarà ancora, anche perché le proiezioni sono accompagnate quasi sempre o da me o comunque dal dibattito con persone che lavorano sia nell'ambito cinematografico ma anche nell'ambito di cui parla il film, e quindi ci saranno dule, ci saranno ostetriche, ci saranno donne appunto che possono dire la loro opinione rispetto a questa questione del diventare madri. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Sulla pagina Facebook e Instagram di Zalab ci sono tutti i riferimenti per appunto intercettare le date, lì troverete tutto quello che serve, quindi spero sia un'occasione per vedervi in sala di nuovo, quindi grazie per questa possibilità. Il documentario Tempo d'attesa al cinema da domenica 9 marzo 2025, un saluto e un ringraziamento alla regista Claudia Brignone. Alla prossima! Grazie, grazie ancora, ciao! Con con Giulio Mezza, direttore artistico della sesta stagione di Short Days a Roma, Nuovo Cinema Aquila, venerdì 7 marzo 2025. Ben trovato. Buongiorno, grazie mille per avermi ospite. Ci parli di Short Days? Cos'è? Short Days non lo chiamerei festival, ma più che altro è una mostra cinematografica veramente unica nel suo genere, perché è stata creata questo evento da Andrea Gatopoulos e Marco Crispano, che sono due registi e due addetti ai lavori, e loro avevano proprio quest'idea di creare un ambiente che valorizzasse il cortometraggio come proprio forma filmica e opera d'arte. Quindi non è un festival di cortometraggi, ma più che altro sono delle rassegne tematiche. Ogni edizione ha dei curatori, quindi ha dei registi che insieme ai direttori artistici, in questo caso noi siamo i direttori artistici perché abbiamo preso l'eredità di Andrea e Marco, e i registi insieme ai direttori artistici creano e selezionano dei cortometraggi che saranno mostrati, ruoteranno tutti intorno a un tema e poi saranno accompagnati da dibattiti. Loro hanno sempre fatti al Cinema Aquila, da adesso noi siamo entrati in veste anche di direzione artistica con la Cinema Mundi Onlus, l'ente che gestisce il Cinema Aquila, quindi è diventata una nostra produzione e sarà sempre più quel processo volto a mettere al centro il cortometraggio, i registi e proprio l'opera filmica all'interno della sala cinematografica. Quante sono le opere presentate e saranno accompagnate da autrici ed autori? Per questa sesta stagione, nonché nostra prima edizione come direttori artistici, abbiamo pensato a una prima edizione che sia un po' in continuità con il meraviglioso lavoro fatto da Andrea e Marco in questi anni. Quindi abbiamo scelto un grande tema, che è il tema dell'autofiction, in quanto in questi anni è un tema che è diventato molto presente nei lungometraggi, sia di finzione che documentari, e quindi sono stati selezionati tre cortometraggi, più un quarto che è di Gaia, che è la co-direttrice artistica insieme a me. Quindi ci saranno dei cortometraggi, ci sarà Comunque Bene, cortometraggio di Beatrice Baldacci, e sarà la sua prima romana, poi We Should All Be Futurists di Angela Norelli, e Lui ed Io di Giulia Cosentino. Il tutto sarà aperto da Matrimonio, che è questa opera di archivio filmico di Gaia Silvia Meloni. Com'è stata la scelta artistica? Noi siamo sempre andati cercando opere che in qualche modo spostassero lo sguardo in avanti cinematografico. In questo caso sono tutte autrici, anche perché ci piaceva dare questo input iniziale. Sono registe che già erano passate per il Cinema Aquila, che in qualche modo facevano parte della comunità che si è venuta a creare in questi anni intorno al Nuovo Cinema Aquila, e sono registe che ci sono sempre sembrate delle esponenti di un nuovo tipo di cinema, di un nuovo modo di utilizzare la forma cortometraggio. Speriamo che in questo giorno, il 7 marzo, che ci si potrà confrontare, ne potremo parlare, ci si potrà interrogare su dove sta andando il cinema, dove, qual è lo spazio ancora per la sala cinematografica, per il cortometraggio, e speriamo che sia un evento che possa riunire tanti addetti ai lavori, ma anche pubblico che vuole vedere qualcosa di non comune e di leggermente più sperimentale rispetto a un film in sala canonico. Perché con Short Days speriamo di andare a coprire quella fetta di pubblico che ciclicamente vede opere al cinema e ha bisogno, il proprio sguardo deve essere nutrito di qualcosa leggermente più sfidante anche. I riferimenti web per saperne di più? C'è la pagina Instagram che si chiama Short Days Festival, in cui peraltro invito anche chi ci sta seguendo, i registi, perché noi siamo sempre alla ricerca di nuovi cortometraggi da mettere anche per edizioni future, quindi qualora aveste un'opera che corrisponde un po' a questo spirito, inviatecelo. E poi comunque anche la pagina Instagram del Nuovo Cinema Aquila, perché ormai essendo diventata una produzione Nuovo Cinema Aquila sicuramente la comunicazione verrà fatta in tandem. Sesta stagione della mostra cinematografica di cortometraggi Short Days a Roma al Nuovo Cinema Aquila, venerdì 7 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giulio Mezza. Alla prossima! Grazie mille a voi, grazie tante, buon lavoro, grazie. Con con Gaia Siria Meloni, ideatrice dell'evento Lotto al Cinema, incontri di cinema femminista. A Roma, Nuovo Cinema Aquila, sabato 8 marzo 2025. Ben trovata. Ben trovato a te Federico, grazie mille per questa ospitata. Presentaci questa iniziativa. Siamo già al terzo anno di Lotto al Cinema, che è un'iniziativa a cui tengo moltissimo e che cerca di mettere al centro, cosa che in realtà qui al Cinema Aquila facciamo tutto l'anno, il cinema realizzato da donne, non solo che riguarda tematiche femminili, ma anche realizzato, prodotto, ideato e girato da donne. Ma non solo, tentiamo sempre di mettere anche in comunicazione varie tipologie di arte, quindi da fotografi anche a collettivi, come faremo quest'anno insieme a Mueres nel cinema, che è già il secondo anno consecutivo che collabora con noi per questa iniziativa e che si occupa proprio di mettere in relazione e in rete tutti i mestieri del cinema. Quindi parleremo con loro riguardo a un tema molto caldo e molto importante, che è quello della maternità nell'ambito dell'audiovisivo, tema già sollevato quest'anno durante la mostra internazionale del cinema di Venezia da Maura Del Pero, che col suo Vermiglio ci ha fatto sognare per un attimo l'Oscar e ha messo al centro quanto sia importante e quanto sia anche complicato conciliare la maternità e il mondo dell'audiovisivo. Quindi con Mueres nel cinema avremo modo di parlare di questo e sarà il primo degli appuntamenti dell'Otto al Cinema, che inizia intorno alle 18.30. Da quel momento in poi tutta la giornata sarà dedicata alle proiezioni di cortometraggi che hanno vinto un festival che promuoviamo qui al Cinema Aquila, che è il Free Aquila, e sono ben 4 i corsi di quest'anno, tutti a regia femminile, escluso uno, perché ci teniamo che in realtà venga promosso lo sguardo femminista, che non è detto che appartenga solo alle donne, anzi noi ci auspichiamo che appartenga sempre più anche agli uomini. E i corti sono Yamar di Chiara Causa e Alema Morelli, Ho ballato di tutto di Sara Narducci, Il mondo salvato dalle ragazzine di Maria Luisa Usai e Osas e le donne di Benin City di Gabriele Gravagna. Ognuno di questi corti affronta il mondo delle donne, il mondo del femminile, in maniera veramente molto originale e tra l'altro non scontata, ecco, perché parliamo di amicizia, parliamo di rapporto a due tra donne, parliamo dei sogni delle bambine di oggi che saranno le donne di domani e parliamo anche delle lotte, che è un altro dei temi che non a caso, insomma, mi è piaciuto chiamare questa iniziativa Lotto al Cinema, perché le lotte e le nuove sfide del domani sono un altro dei temi per noi molto, molto importanti da mettere al centro, cioè vedere anche su cosa dobbiamo iniziare a negoziare i nostri diritti e i nostri sogni di domani, ecco. Ci sarà modo di incontrare autrici ed autori? Assolutamente sì, perché come sempre facciamo qui al Cinema Aquila, quindi assolutamente in linea con la nostra filosofia, l'incontro tra pubblico e autori è il centro, è il cuore di tutte le iniziative che facciamo, quindi le autrici e gli autori saranno presenti tutti quanti per appunto dar luogo a un Q&A al termine delle proiezioni, anche, ecco, non solo in merito ai lavori che presenteremo, ma anche proprio cercando di intravedere una visione del domani, che noi teniamo tantissimo anche a questo, cioè creare, immaginare nuove narrazioni, nuovi tipi di narrazioni audiovisive, sperimentali nel linguaggio, ma ancor più nei contenuti. Com'è stata la scelta dei titoli? È relativa appunto a questo festival, con un'altra produzione Cinema Mundi, quindi Cinema Aquila, che è il Free Aquila. È questo festival che noi ospitiamo ogni anno, che non ha tematiche precise, ma è aperto a tutti, tutti i corsi indipendenti, e che prevede tutta una serie di premi. Questi corsi sono stati premiati proprio in vista dell'Otto al Cinema, cioè nel momento in cui noi come direttori artistici dovevamo individuare delle menzioni speciali, questi corsi subito ci sono saltati all'occhio per l'originalità, soprattutto per appunto lo sguardo molto innovativo sul mondo delle donne, quindi abbiamo detto ok, loro saranno sicuramente nel programma dell'Otto al Cinema, e così è stato. Quindi ecco, sono dei corsi veramente molto molto a fuoco su quello che è il mondo del femminile di oggi. Nel complesso quanti sono gli appuntamenti della giornata? Allora, inizieremo alle 18.30, come piace a noi, sempre con un aperitivo di benvenuto. Dalle 18.30 inizierà anche il talk con Mujeres nel cinema sulla maternità e il mondo dell'audiovisivo, e poi dalle 19.30 le proiezioni. Mi piace anche ricordare che, come tutti gli anni, nell'ambito dell'Otto al Cinema, tutte le proiezioni che ospiteremo qui al cinema e che esulano dall'iniziativa per le donne sono tutte a prezzo ridotto. Quindi si pagherà 5 euro tutto il giorno, e fra l'altro avremo anche anche un'anteprima di un film, seguiteci sui canali e social che insomma ci sarà una grande sorpresa, ecco, per l'8 sera. Ecco, ci dai i riferimenti web per saperne di più? Ci trovate ovviamente su Instagram Cinema Aquila il profilo, così come Nuovo Cinema Aquila su Facebook e il sito sempre www.cinemaquila.it, sempre aggiornatissimo. Devo ricordare una nuova collaborazione che è nata proprio per questo marzo, che è quella con Overlook, la libreria del cinema, che è una libreria meravigliosa che si trova al centro di Roma e che ha deciso di diventare anche loro nostro sponsor e comunque collaboratori, e che ci porteranno dei libri a tema ovviamente sul mondo del cinema femminile, delle locandine di cinema, cioè di film regia femminile, e insomma abbelliranno qui il Nuovo Cinema Aquila con le loro opere. Quindi insomma veramente prendiamo di tutto: libri, cinema, musica, talk, cerchiamo di trasformare sempre più il cinema in un luogo che possa accogliere tutte le arti, così come sempre abbiamo fatto. Terza edizione di Lotto al Cinema, incontri di cinema femminista a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, sabato 8 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Gaia Siria Meloni. Alla prossima! Grazie a te. Con Rosa Maietta, regista dell'Eco dei Fiori Sommersi. Ben trovata! Ciao, buongiorno! Ti presenti questo tuo lavoro? L'Eco dei Fiori Sommersi è un film nato, cresciuto, girato nell'Archivio di Stato di Napoli, dove ho cominciato una ricerca un po' di anni fa per varie questioni. E poi ad un certo punto, lavorando a stretto contatto con le archiviste, quasi tutte donne, scoprì delle storie di altre tante donne, da alcuni processi penali dal 700 fino ai inizi del 900. E una delle cose che, non che mi meravigliasse, però era sconvolgente, il fatto della somiglianza, della vicinanza tra queste storie di 300 anni fa a quello che purtroppo accade ancora oggi, nel 2025. E poi c'era tutto un ragionamento sulla memoria che stavo affrontando in quel periodo, e in qualche modo è venuto fuori questa idea, questa necessità di affrontare la questione e di fare questo film. Come hai deciso di muoverti? Io parlo di film perché non è un vero e proprio documentario, qualcuno lo chiama documentario creativo, ma è un film che fa uso di vari linguaggi, perché è comunque fatto di vari livelli. C'è una parte prettamente documentaristica, che è quella che racconta la macchina archivio, insieme alle testimoni che sono le archiviste, le movimentatrici che ci portano da un luogo all'altro, da un piano all'altro. Poi nel momento in cui la macchina da presa incontra le carte e quindi ci porta letteralmente dentro la scrittura, dentro queste storie, ecco che prende vita un nuovo linguaggio che è, ecco, una sorta di finzione, ma non una rimessa in scena delle storie, perché non era tanto quello che mi interessava, quanto piuttosto un rievocare, un linguaggio caldo ed emotivo che potesse rievocare una emozione a partire da una scrittura tecnica e fredda. E questo poi accompagnato da materiale di repertorio, ho tre pezzi di materiale di repertorio e un'animazione della bravissima Gaia Lari, che mi ha regalato un gioiellino per raccontare un'altra storia. Quindi è veramente un'ibridazione di linguaggi che è tutta tesa a tradurre appunto questo tipo di linguaggio tecnico e freddo, e diciamocelo, anche maschile, in un linguaggio che poi punta a restituire un'emozione e poi una voce di queste donne che in realtà non l'avevano veramente avuta in queste carte. Com'è stata la scelta delle storie? Molto complessa, soprattutto agli inizi, quando c'era prima l'idea di raccontare l'archivio come casa delle storie, però davanti a una moltitudine come quella che avevo io davanti era veramente complesso. Poi attraverso le archiviste, a cui cominciai a chiedere ma per caso privatamente stai studiando altre storie, e ciascuna di loro effettivamente aveva studiato, stava studiando dei processi appunto riguardanti storie di donne. Quindi incontrai Linda e la sua storia di aborto, incontrai Emma, una sovversiva di Forcella, eccetera. Quando mi resi conto che questo era il fil rouge, poi la ricerca l'ho continuata un po' da sola, aiutandomi anche col database, però andando proprio sotto parole chiave che fossero varie sfaccettature di altre situazioni, no? In cui una donna poteva trovarsi, quindi andavo cercando per violenza carnale, maltrattamento, eccetera eccetera. Quindi attraverso poi appunto lo studio dei faldoni eccetera, quello che veniva fuori e che un po' più mi colpiva, ma anche dal punto di vista proprio del materiale contenuto nei faldoni, ecco, poi le sceglievo in qualche modo. Purtroppo ne ho dovuto tagliare veramente tante, però. Il titolo, anche in base al fatto che ci sono immagini subacquee? Per arrivare al titolo è stata veramente complicata, però effettivamente sì, c'è tutta questa metafora acquatica che attraversa il film. Comincia proprio con un tuffo, che è proprio metaforico, e poi l'acqua in qualche modo attraversa tutto il film per varie ragioni. E sommersi, cioè questi fiori che in qualche modo sono le donne, del protagonista delle storie, sommersi, ma sia per una questione proprio acquatica, ma anche sommersi dalla polvere, sommersi dal tempo, e racchiuse dentro questi faldoni che appunto sono lì nell'oblio, dimenticati. L'eco, perché finalmente in qualche modo mi sono arrogata il diritto di ridargli un po' di voce, ed è una voce che in qualche modo risuona e risuonerà. Che distribuzione hai pensato? Non c'è una vera e propria distribuzione, però dopo l'anteprima che abbiamo fatto al Filmmaker di Milano ci sono un po' di interessi da alcune persone che hanno letto del film e che in qualche modo vorrebbero un po' sostenerlo e ci tengono ad aiutarmi a diffonderlo. Contemporaneamente sono in contatto con un po' di realtà che anche potrebbero darmi una mano, e poi stiamo aspettando un po' di risposte da alcuni festival per poi cominciare una vera e propria diffusione, speriamo possibile, perché comunque un film non è proprio semplicissimo da infilare in una programmazione, però sono abbastanza positiva. Dopo Milano e Roma ci sarà la prima a Napoli, dopodiché speriamo un po' di raggiungere altre città grandi e piccole. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Sul sito di ladoc.it, ladoc è la società di produzione che ha prodotto il film, ci sono un po' di informazioni e da lì vari link per approfondire. Il film L'eco dei fiori sommersi, un saluto e un ringraziamento alla regista Rosa Maglietta. Alla prossima! Grazie, grazie. Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per sapere le novità della rete distributiva indipendente. Ben trovato. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Allora, questo mese abbiamo diverse novità sia per quanto riguarda lo stream che la sala e gli spazi sociali. Partiamo dal secondo. Da ieri è uscito nelle sale e negli spazi sociali, per chi volesse aiutarci anche con una proiezione pubblica, il film Portuali di Perla Sardella, che racconta in profondità la storia del collettivo dei Portuali Genovesi, in particolar modo tutta la vicenda di questi ultimi anni legata anche alla campagna di boicottaggio contro le armi e a tutte le attività che sta realizzando il collettivo. Per noi è un'opera sicuramente molto importante, che è nella scia anche di altri film che abbiamo portato nelle sale e negli spazi sociali in questi anni, uno su tutti E tu come stai, del collettivo di fabbrica GKN, e il film inizia appunto da ieri la sua tournée italiana e siamo in fase di distribuzione nei territori, per cui non solo vi invitiamo a cercarlo nella sala più vicina, ma anche aiutarci a portarlo dove ancora il film non è presente. Come potete immaginare, l'unico vero modo per aiutare il cinema indipendente è il passaparola dal basso. E, oltre a questo, abbiamo diverse uscite molto interessanti questo mese e in generale in questi mesi abbiamo diversi lavori in uscita sulla piattaforma, sulla sezione streaming, molto interessanti. Ve ne cito alcuni, uno su tutti, To Kids a Day, che è un film che arriva dall'estero e che abbiamo portato in Italia in esclusiva, ambientato nella West Bank, quindi dove ovviamente il tema della questione palestinese è centrale e che in particolar modo, come potete capire dal titolo, racconta il vissuto quotidiano di due ragazzini palestinesi e cosa significa vivere, nascere, vivere e crescere in una condizione di occupazione, come appunto vivono tanti ragazzi. Il film è sia in streaming che in sala, perché l'urgenza del tema ci ha imposto questa scelta, e quindi non solo lo potete vedere dalla piattaforma, ma potete anche trovarlo in diverse sale italiane che appunto con le quali stiamo collaborando. Abbiamo inoltre l'arrivo in streaming anche di Romina, un bellissimo lavoro che abbiamo accolto ancora mesi fa anche con una proiezione speciale nella nostra sala Open di Bologna, realizzato dal collettivo Fase 3, ed è un film che racconta la storia di Romina, questa ragazza pugilessa che non solo fa parte di quel percorso di sport popolare che in particolar modo qui a Bologna da diversi anni ha preso piede in forme molto interessanti, portando poi spesso anche queste persone a non solo fare un percorso di sport popolare, ma poi a come nel caso di Romina, anche arrivare a dei livelli molto alti sul piano agonistico della box in questo caso, ma ovviamente racconta il suo vissuto e anche quello che è la sua vita personale, un film, devo dire, molto intimo per certi versi, e che attraverso la sua storia biografica, Romina è una ragazza molto giovane, pone in essere anche tutta una serie di riflessioni su quello che è la precarietà esistenziale di oggi che viviamo, in particolar modo come nel suo caso, se sei fai parte di quelle cosiddette seconde generazioni, una parola che oggigiorno assume anche un significato molto più debole in qualche maniera, perché sono ragazzi e ragazzi nati in Italia e inizia a essere problematico quasi usare questo termine, secondo me. E vi consiglio caldamente di vedere quest'opera. E un'altra opera che vi segnaliamo invece è su Tutti Rock, un film che abbiamo colto in catalogo e che abbiamo anche portato nelle sale il mese scorso, che invece segue un po' la scia dell'area più dedicata ai film documentari musicali che da un po' di tempo abbiamo arricchito in catalogo e che racconta della scena underground di Bolzano e dell'Alto Adige, che anch'io per poca conoscenza dell'ambito conoscevo poco, ma che era una scena, in particolar modo negli anni 80 e 90, estremamente interessante, anche perché appunto nata e cresciuta in una linea di confine, in qualche maniera, in un punto di confine tra diversi paesi, tra diverse culture che si intrecciano. Questo e molto altro è presente sul catalogo, che vi invitiamo come ogni volta a visionare, www.opendp.it, e anche il prossimo mese avremo delle uscite molto importanti che avremo il piacere poi di raccontarvi ad aprile. Un abbraccio, Paco, alla prossima. Grazie a voi, a presto. Con Giulio Carcani dell'ISPRA, uno dei curatori della rassegna Cineclub Scienza, al cinema con i ricercatori e le ricercatrici, a Roma, al Teatro Palladium, dal 15 gennaio al 9 aprile 2025. Ben trovato. Buongiorno a tutte e tutti, intanto grazie per questo spazio. Sì, stiamo organizzando questa rassegna Cineclub Scienza al cinema con i ricercatori e le ricercatrici proprio per portare con alcuni film e una problematizzazione del mondo sia della scienza ma anche dell'ambiente e delle crisi ambientali di oggi e raccontarle con gli occhi di ricercatori e ricercatrici e il pubblico ovviamente, quindi è un evento che racchiude anche poi una parte non di dibattito ma di dialogo con esperti. Come nasce tutto? Dall'idea che l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sta negli anni curando la comunicazione, la terza missione, cioè rappresentare ai cittadini sia il lavoro che svolge, ma anche problematizzare delle tematiche stringenti del nostro tempo. L'Istituto si occupa di tematiche prettamente ambientali, ma di ampio respiro, ecco, dal consumo di suolo all'inquinamento atmosferico e a tante altre questioni, ma con questi film noi un pochino vogliamo toccare tutta una serie di argomenti che riguardano il nostro contemporaneo da un'ottica ambientale. Com'è stata la scelta dei titoli? È stata una scelta direi interessante e complessa perché abbiamo visto circa una cinquantina di film, l'abbiamo organizzato in tre questa rassegna, Giordana De Vindictis, Flavia Carlisi ed io, e quindi abbiamo visto tutti questi film e poi ci siamo interrogati intanto prima cosa sulla qualità filmica, perché noi questa rassegna l'abbiamo organizzata anche in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma 3 e questo insomma ci inorgoglia intuisce molto, perché una collaborazione tra un istituto prettamente scientifico come ISPRA e invece un dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo, appunto, ci permette di averci degli esperti, degli specialisti, ma soprattutto una visione tecnico-scientifica e umanistica alla rappresentazione dei film. Quindi ecco, i film alla fine sono stati scelti perché c'entrano alcuni temi molto interessanti del nostro presente, dai conflitti ambientali, mi viene in mente con La donna elettrica, ad Imitation Game, con i problemi quindi collegati alla intelligenza artificiale e soprattutto il rapporto che c'è tra scienza, tecnica e potere, che oggi è uno dei dibattiti, insomma, sulla bocca di tutti. Basta anche pensare alle ultime vicende che vedono ad esempio Elon Musk, che è un tecnocrate alla fine, no? Che si sta relazionando con una serie di governi. Quindi, come è pensato ogni singolo evento? C'è la proiezione del film e poi ecco questo agile dialogo dove sia ricercatori che ricercatrici che docenti universitari in filosofia, antropologia e cinema ragioneranno su alcuni nuclei tematici dei vari film. Non vi preoccupate, perché comunque insomma sarà un dialogo molto agile, sarà moderato, quindi si cercherà ecco di non sbrodolarsi per capirci, ma cercheremo appunto con anche l'aiuto del pubblico di ragionare intorno a delle questioni che sono importanti per quello che riguardano l'ambiente. In genere, guarda, quando noi vediamo questi film, uno delle pellicole che è in proiezione è Il sale della terra, uno esce sempre un po' con una strana sensazione di scacco, di impossibilità di fare qualsiasi cosa, quello che poi si chiama un po' ecoansia. Ecco, noi quello che cercheremo di fare alla fine di ogni film è dare parola a questa ecoansia per non vivercela nella nostra solitudine, ma per ragionarla e sperare poi di creare quelle situazioni che possono portare a un ragionamento complessivo e quindi a una messa in discussione un po' delle varie problematiche che stringono e che riguardano comunque il nostro pianeta. Hai parlato della tematica di un paio di titoli, li ricordiamo tutti i temi? Il 12 marzo saremo con il film Il male non esiste, un film molto bello, un film giapponese, e poi saremo con Il sale della terra, quindi saranno quattro film per quattro mercoledì, uno al mese da gennaio ad aprile, e partiremo proprio con il primo film il 15 gennaio di Imitation Game, quindi la storia di Alan Turing e la problematica di come decodificare il codice Enigma che era utilizzato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale per criptare le comunicazioni. Una cosa volevo dire, che tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito previa prenotazione, quindi insomma il sito del Palladium permetterà a tutte e tutti di prenotarsi. I riferimenti web per i dettagli del programma? Sul sito del Teatro Palladium Roma 3, oppure Cineclub Scienza, dove vi potete anche prenotare gratuitamente il vostro posto. E una cosa a cui teniamo molto, ricordiamoci che il Cinema Palladium sta a Garbatella, che è raggiungibile con i mezzi pubblici, c'è la metro B, quindi evitiamo di fare traffico e di rilasciare emissioni a CO2 che tanto ci preoccupano. La rassegna Cineclub Scienza, al cinema con i ricercatori e le ricercatrici, a Roma, al Teatro Palladium, dal 15 gennaio al 9 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Giulio Carcani dell'ISPRA, tra gli organizzatori della rassegna. Alla prossima! Grazie a tutti voi, alla prossima! Con Catello Masullo di Italia Nostra per presentare l'appello SOS sale cinematografiche verso un tavolo per salvarle. Ben trovato. Grazie a Radio Onda Rossa. Ci parli di questo appello? Italia Nostra Roma, che da sempre si batte contro il degrado urbano, ma soprattutto per la salvaguardia delle grandi opere artistiche, architettoniche e monumentali, già nel 2019 aveva fatto un'istanza di vincolo per alcune sale importanti costruite dal grandissimo ingegner Riccardo Morandi. Quando se ne è posta l'occasione, adesso soprattutto perché c'è l'allarme della nuova normativa regionale già approvata in giunta l'anno scorso, ma che sta per andare in consiglio per l'approvazione definitiva, questo allarme ovviamente ha attestato in Italia Nostra la necessità di realizzare un evento, seminario, conferenza stampa il 20 febbraio, recentissimo, in cui ha fatto un grande appello sia alla regione che riconsideri questa proposta di normativa, possibilmente stralciando la parte relativa alle sale cinematografiche, e alla regione e a Roma Capitale di istituire gli stati generali del cinema a Roma partendo da un necessario censimento delle sale. L'intento è quello di preservare dei veri e propri monumenti del moderno, dell'architettura moderna del Novecento, per le future generazioni, perché i cambi di destinazione d'uso e eventuali demolizioni e ricostruzioni con premi di cubatura non facciano sparire per sempre questi grandi capolavori dei grandissimi architetti che si sono alternati a Roma dagli anni 50 agli anni 60 per costruire dei monumenti straordinari che attualmente sono in drammatico abbandono. Questa cosa ha interessato molto, tanti media se ne stanno interessando, ma non solo nazionali, a parte che sono stato intervistato da Repubblica, ma poi sono stato intervistato dal Times di Londra e da Al Jazeera, che tutti conosciamo come network internazionale. Tanti altri si stanno interessando, ci sono i grandi di Hollywood che hanno aderito a questo appello, lo hanno sottoscritto e hanno perfino scritto una lettera indirizzata al Presidente Mattarella e alla Presidente Meloni, e quindi noi speriamo vivamente che questo appello in qualche modo venga raccolto. Un timido segnale lo abbiamo già ricevuto, leggendo sui giornali che il Presidente Rocca ha attenzione a questa tematica, sebbene la sua risposta sia assolutamente insoddisfacente, che noi chiediamo fortemente appunto lo stralcio della questione sale cinematografiche, ma anche sale teatrali, perché non è pensabile che se una sala è chiusa da 10 anni possa essere abbattuta clamorosamente, quindi distruggendo un vero e proprio monumento, per poter far spazio per esempio a attività di tipo commerciale. Paradossalmente, chi potrebbe accettare che se il Colosseo non venisse usato per 10 anni poi potrebbe essere abbattuto e farci, che ne so, un circo o uno stadio nuovo? Questo non lo accetterebbe nessuno. E quindi noi lanciamo alto questo grido, questo allarme, perché effettivamente non si commettano errori di questo tipo che potrebbero far perdere per sempre, per le nuove generazioni, questi veri e propri monumenti dell'architettura, ma non solo, ma anche naturalmente dell'arte e della grande espressione del genio italiano. Due cose: esiste una mappatura delle sale a rischio e poi i riferimenti per dettagli di questo appello. Per quanto riguarda una mappatura, un vero e proprio censimento non è stato fatto, ma esiste una pubblicazione straordinaria, un libro del professor Curcio che ha aperto il nostro convegno della Sapienza, della Facoltà di Architettura, che si chiama Fantasmi Urbani, e la dice tutta naturalmente nel titolo, che è una straordinaria mappatura fatta di tutti i cinema che sono chiusi. Tu pensa che negli ultimi 15 anni 103 sale sono state chiuse, quindi un numero spaventoso. Quindi il 70% delle sale in soli 15 anni sono state chiuse, ne rimangono solamente 44 aperti, e la proposta iniziale di legge regionale cambiata avrebbe messo a rischio anche questo. Fortunatamente questo rischio sembra rientrato. Dal punto di vista della traccia che abbiamo lasciato, il nostro comunicato stampa, che è sul nostro sito web di Italia Nostra, però è stato ripreso letteralmente con ampi stralci delle parti significative da tutta la stampa principale, quindi Repubblica e Corriere della Sera ne hanno riportate ampi stralci, ma anche tante altre testate, e adesso lo state facendo voi di Radio Onda Rossa in maniera autorevolissima, e quindi vi ringraziamo, e noi continuiamo, perché adesso cerchiamo di avere un interlocutore anche col Presidente Rocca, con il nuovo assessore all'urbanistica che si è appena insediato. Scriveremo una lettera rilanciando questi appelli e soprattutto chiedendo un incontro per poter spiegare bene le nostre ragioni, sperando di essere naturalmente ascoltati e capiti. L'appello SOS sale cinematografiche verso un tavolo per salvarle. Un saluto e un ringraziamento a Catello Masullo di Italia Nostra. Alla prossima! Grazie, grazie Radio Onda Rossa, grazie, evviva! con Costanza Previtali per presentare il suo libro L'anarchico della pellicola. Ben trovata. Ciao, ciao, grazie dell'ospitalità. Ci presenti questo tuo lavoro? L'anarchico è un progetto che insomma mi ha occupata per anni, perché è stato molto difficile trovare informazioni, dal momento che la tecnica cinematografica è un'arte veramente dimenticata e non esistono fonti scritte. Quindi ho dovuto lavorare proprio sulle interviste degli anziani operai che lavoravano presso lo stabilimento Spes, che è stato il primo in Italia a occuparsi dello sviluppo della pellicola cinematografica, con dei sistemi innovativi inventati proprio da Ettore Catalucci, che è stato un grande pioniere del cinema italiano. Come nasce tutto? Nasce da fotografie, perché Ettore Catalucci era il mio bisnonno e io sono cresciuta con le immagini appunto di questo mondo fantastico del cinema, di questo stabilimento enorme, personaggi famosi che giravano all'intorno e che sono stati proprio l'immagine della mia infanzia. Quindi dalla curiosità, dal vedere quelle immagini a voler approfondire, è stato veramente un gioco abbastanza semplice. Come ti sei mossa per le ricerche? Sono iniziate anzitutto in famiglia, dove però le notizie sul lavoro erano veramente poche, perché Ettore non portava mai a casa il suo lavoro, quindi mi mancava tutta la parte umana, diciamo, è venuta fuori dai ricordi di mia madre, dei miei zii, dei suoi cugini. Invece per quanto riguarda la parte relativa al lavoro proprio di sviluppo e stampa della pellicola, ho dovuto proprio agire come si faceva un tempo, cioè intervistando le persone, ascoltando i loro racconti. Come lo hai strutturato il libro? Il libro ha un andamento circolare, nel senso che non volevo assolutamente renderlo un saggio, perché un saggio non sarebbe stato fruibile come effettivamente un romanzo avventuroso è, perché la vita di Ettore è stata veramente una grande avventura e volevo raggiungere più persone possibile. Quindi mi ho dato proprio un andamento circolare molto simile a quella che è la struttura cinematografica proprio, quindi con molti flashback, con molti passaggi avanti e indietro nel tempo. Che quadro emerge sia rispetto alla Spes che al tuo bisnonno? Il quadro di un uomo proprio, come si suol dire, d'altri tempi, cioè un uomo che comunque ha fatto la prima guerra mondiale e che però ha continuato a perseguire il suo sogno nato proprio da bambino, perché lui è rimasto orfano di padre a 9 anni, ha dovuto mettersi subito a lavorare per mantenere la madre dei 3 fratellini e lì ha scoperto la fotografia, che è stato il suo primo grande amore. Quindi una figura veramente tenace nel perseguire i suoi sogni, anche sotto le bombe del Carso, ha messo gravemente alla prova, perché lui comunque durante la prima guerra mondiale era fotografo addetto alle segnalazioni, quindi era sempre in prima linea, tanto che dopo una notte di bombardamenti per la paura gli sono caduti tutti i capelli e non gli sono mai più cresciuti. E questa particolarità gli aveva dato anche quest'aria ascetica che lo caratterizzava fortemente. E quindi proprio il perseguire il proprio obiettivo e il perseguire il proprio sogno a prescindere da tutto e da tutti, cioè lui ci ha sempre creduto e ha creato veramente un'istituzione, perché la Spes fino agli anni 70, quando poi è entrato in crisi tutto il mondo del cinema, è stata veramente un'istituzione, cioè lui, mi hanno raccontato tutti gli operai, che c'erano i grandi registi come Fellini, Rossellini, che quando finivano di girare una scena, la frase per dire ho finito di girare una scena era andiamo da Catalucci, quindi c'era solo lui. Che esperienza è stata la realizzazione del libro? È stata un'esperienza umana bellissima, perché a parte che ho conosciuto delle persone incredibili, cioè tutti gli operai ormai ottantenni che hanno passato la vita a raccontare questi aneddoti e che ormai la famiglia, diciamo, era annoiata da questi aneddoti e hanno trovato veramente un orecchio curioso. Quindi è stata un'esperienza umanamente molto, molto, molto bella, anche perché io non avevo conoscenza di tutto quello che aveva fatto a livello professionale il mio bisnonno. E è stata una scoperta molto emozionante, perché me l'ha fatto conoscere proprio a livello intimo. Cioè un uomo che è riuscito a creare una realtà del genere e che l'ha vissuta a livello personale come fosse veramente un figlio, la Spess per lui era un figlio, è stata una lezione anche di vita, perché credo sia veramente un esempio per tutti. Il libro L'anarchico della pellicola, un saluto e un ringraziamento all'autrice Costanza Previtali. Alla prossima! Grazie, alla prossima! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.